abbiamo deciso di sostenere quanto sta accadendo a Bologna, perché purtroppo quello che accade a Bologna accade a Milano e in tantissime altre città, soprattutto la questione di tutela degli spazi verdi e anche e soprattutto della parte di partecipazione da parte dei cittadini e delle cittadine in quella che viene, almeno a Milano, definita generazione urbana e da noi ribattezzata degenerazione urbana. Quindi ci sono progetti anche a Milano che, come dire, abbattono alberi? Assolutamente sì, anzi tutte le aree verdi sono sotto attacco o sono attenzionate per essere, appunto, come il comune di Milano, l'assessorato non si chiama più assessorato all'urbanistica ma alla generazione urbana, per essere rigenerate, senza però pensare di tutelare, per esempio Milano di verde ne ha pochissimo, di tutelarlo. Noi sappiamo che il suolo a oggi è importantissimo, soprattutto nelle città, quindi il consumo di suolo deve terminare, ma in realtà continua ad aumentare, e noi sappiamo da anche dati statistici e osservazioni che Bologna purtroppo sta cominciando a comportarsi come Milano. Nel vostro comunicato sottolineate che progetti anche ecocompatibili come il tram o la pista ciclabile non possono essere un pretesto però per distruggere il verde attuale. Certamente, dal punto di vista, diciamo, della narrazione da parte di chi gestisce, governa una città, in realtà sono molto bravi a creare una narrazione sempre positiva e accattivante, però poi quando si entra nel merito dei progetti si scopre che viene consumato suolo. Anche a Milano la questione delle piste ciclabili va per la maggiore, risulta positiva, però poi si scopre, a parte magari che non sono neanche, voglio dire, piste ciclabili così lunghe, che portano via, in realtà consumano, tolgono spazio, e questo è un grosso problema, perché poi non è facile riuscire a spiegare che una gestione di una città deve prendere in considerazione tanti aspetti. Le amministrazioni, non solo a Bologna, immagino anche lì a Milano, di fronte a progetti che prevedono appunto la riduzione, il taglio di alberi, eccetera, poi dicono ci sono, noi li ripiantiamo, le ripiantumazioni insomma a volte sono anche superiori agli abbattimenti, e voi non va bene? Allora, questo è di legge, nel senso che quando vengono abbattuti degli alberi deve essere aggiunto il 20% in più rispetto a quello al numero degli alberi abbattuti, ma non c'è mai un calcolo rispetto alla pianta abbattuta, che sicuramente ha tanti anni, magari anche 40, 50, 60, rispetto ad alberi molto più giovani che vengono rimessi, e oltretutto non è detto che vengano rimesse nell'area dove è accaduto l'abbattimento, ma da tutt'altra parte. Quindi questo non è una buona ragione o una buona pratica, perché comunque l'area che è stata sottoposta a rigenerazione urbana ha perso, e soprattutto il suolo, cioè il suolo è fondamentale, anche solo per il fatto il suolo permeabile è quello che per esempio cattura CO2, cattura l'acqua e permette di, voglio dire, abbassare le temperature in una città, quindi va tutelato. In più ci sono anche periodi di tutela per quanto riguarda dal 1 marzo al 30 di settembre, che per esempio a Milano non viene mai preso in considerazione, in cui per esempio è vietato abbattere gli alberi per tutelare la nidificazione, cosa che risulta oscura a tutti i nostri amministratori, e questo credo che sia valido anche a Bologna. C'è una legge nazionale, a Milano abbiamo due regolamenti, il regolamento di tutela del verde e di tutela degli animali, sempre disattesi. Pensa che più in generale ci sia un problema di cultura amministrativa rispetto al verde? I regolamenti, per esempio a Milano, vengono sempre nominati ma mai messo in pratica. Milano si vende, cioè Milano, il consiglio comunale, la giunta comunale, come green, noi come rete dei comitati della città metropolitana sono 2 anni che l'abbiamo ribattezzata come, cioè forum a settembre legato al verde, al green, noi l'abbiamo ribattezzato Grey Week, perché qui il cemento aumenta. Oltretutto noi sapete benissimo che a Milano ci saranno le Olimpiadi invernali, e quello che sta accadendo è decisamente disastroso dal punto di vista di consumo di suolo, ma soprattutto quello che poi viene costruito nuovamente non è a servizio giudizio di chi vive a Milano, quindi è ancora più grave questo. E soprattutto non vengono mai accolte le rivendicazioni dei cittadini e cittadini, e questo è grave. Quello che è successo a Bologna è decisamente gravissimo. Dispiace molto leggere e vedere quello che accade, soprattutto a Bologna, e noi ribadiamo il nostro totale sostegno a tutti quanti.